Chiaramente io taglierò molto della relazione che mi ero proposto di esporre qui e cercherò tuttavia di mantenere una certa chiarezza espositiva. Dunque, la pubblicazione dello scritto kantiano sulla religione provocò fin da subito una serie di appassionati dibattiti negli ambienti filosofici e teologici tedeschi che in pochi anni determinarono una più precisa configurazione dei domini propri della teologia nei suoi vari rami, da quella dogmatica alla pastorale catechetica, e attirarono l'attenzione su temi già trattati e discussi da circa un trentennio dai teologi protestanti e illuministi della Germania. Per quanto riguarda i riferimenti generali, vanno viste le opere di Johann Christian Flügge, Versuche in historische Kritischen Darstellung des bisherigen Einflusses der kantischen Philosophie auf alle Zweigen der wissenschaftlichen praktischen Theologie, pubblicata da Hannover tra il 96 e il 98, e l'altro testo di Johann Wilhelm Schmidt, Über christliche Religion, deren Beschaffenheit und zweckmäßige Behandlung als Volkslehre und Wissenschaft für das gegenwärtige Zeitalter, pubblicato a Jena nel 97. Tra questi temi di particolare importanza risultò essere il rapporto che poteva intercorrere tra l'interpretazione critico-filologica delle scritture, basata su un approccio ermeneutico, storico e grammaticale, e l'interpretazione filosofica delle scritture stesse, tese a una lettura rispondente con espressione in voga all'epoca ai bisogni del nostro tempo. Con l'apparire della religione, la discussione sul tema trovò una nuova occasione per riaccendersi e nel giro di pochi anni, tra il 93 grosso modo e il 98, si verificò una fioritura di saggi che prendevano posizione pro o contro la maniera kantiana di interpretare e di utilizzare le sacre scritture. In più luoghi della sua opera, e particolarmente nel paragrafo sesto della terza parte, cioè la fede chiesastica come supremo interprete la fede religiosa pura, Kant si sofferma sulla distinzione che passa tra la Schriftgelehrsamkeit, storica e propria delle fedi storiche, delle religioni dogmatiche e chiesastiche, appoggiantesi ad un'interpretazione erudita, e una Auslegung superiore, propria della religione razionale pura, che non si limita a una lettura storica del testo biblico, ma lo utilizza ai fini del miglioramento dell'uomo. Kant aveva contestato l'esclusivo diritto arrogatosi dai Gelehrten specialisti dei testi biblici a interpretare questi solo secondo i canoni di raffinati procedimenti critico-esegetici, del resto molto apprezzati e considerati necessari per un corretto inquadramento e la loro superiore Deutung, Auslegung, filosofico-morale. Questo procedimento portava a risultati che tendevano solamente a ricostruire la lettera delle scritture, in termine kantiano, senza preoccuparsi di farne emergere lo spirito vivificante presente in esse. In conclusione, gli eruditi finivano per Kant con l'abbracciare le posizioni dei dogmatici e del loro arbitrio interpretativo, entrambi ritenendosi gli unici depositari autorizzati della vera lettura dei testi, escludendo così il gran mucchio degli uomini comuni non specialisti, ai quali porgere le conclusioni ritenute lecite da questo tipo di interpretazione. Ad essa Kant contrappone decisamente quella filosofico-morale, l'unica veramente degna e legittima in quanto tesa a riscoprire nei testi sacri quei sensi utili all'affermazione di una pura religione razionale e morale e a valutare adeguatamente quella Offenbarung di verità morali avvenuta un tempo in un linguaggio figurato e possibilitata a riproporsi nell'età presente col linguaggio della ragione. Nello stesso anno in cui vide la luce la religione, il famoso orientalista ed ermeneuta biblico gottinghese Johann Gottfried Eichhorn pubblicò nella sua rivista di letteratura biblica, Allgemeine Bibliothek der biblischen Literatur, un interessante saggio, il titolo è Briefe di biblische Exegese Betreffend, e già un anno prima aveva pubblicato dei Vorschläge zur Hermeneutik, c'è un interessante saggio sul significato dell'ermeneutica kantiana e sulle differenti maniere di interpretazione dei testi in generale e di quelli sacri in particolare. Questa pubblicazione del saggio eichorniano diede l'avvio a un serrato confronto ermeneutico-teologico su questi temi. Attribuendo a un'ermeneutica razionalmente fondata le caratteristiche di rigore filologico, verifica delle fonti, conoscenza delle lingue antiche, capacità dell'interprete di trasporsi nello spirito del mondo antico, richiedendo cioè per un'ermeneutica sacra le stesse regole applicate da quella profana allo studio dei classici greci e romani, l'unica maniera valida di interpretazione si configurava come quella grammatico-storica e critica, aliena dal ricercare in un testo un senso che non fosse quello ricavabile, il termine usato dai vari teologi in questo caso è eruirbar, ricavabile dalla connessione interna delle parti del discorso, inteso come espressione di quel determinato modo di pensare proprio dell'autore analizzato. La possibilità di attribuire Unterlegen un altro senso a uno scritto, sovrapponendolo dall'esterno in base a esigenze estranee a quelle manifestate dal testo stesso, è negata come un'indebita trasposizione di altre categorie mentali e linguistiche in un contesto di epoche diverse e distanti. Kant, riportando gli esempi dei filosofi morali greci e romani, del tardo giudaismo e del cristianesimo, e poi dei maomettani e degli indiani, aveva richiamato la liceità e la bontà di procedimenti e interpretazioni tesi ad attribuire a particolari testi sensi diversi che non fossero quelli letterali interni alla costruzione stessa del testo. Questo tipo di operazione, per cui viene messo sotto alle parole di uno scritto un altro senso, morale, mistico, anagogico, allegorico, o ne viene ricercato a tutti i costi uno nascosto, finisce col corrompere le regole di una sana interpretazione e pregiudica l'unica possibile comprensione dei documenti rimastici delle varie epoche storiche, espressione del diverso lavorio dello spirito umano nei secoli. Il tentativo della filosofia critica, e sono parole di Eichhorn, di pervenire a una fraterna compatibilità con la teologia biblica. Kant aveva inteso come dovere lo sforzo della sua epoca e il suo personale di cercare nella scrittura quel senso che sta in armonia con quel che vi è di più santo, con ciò che insegna la ragione, e quindi di pervenire a questa fraterna compatibilità con la teologia biblica, conciliando quest'ultima con l'interpretazione allegorica, si rivelerebbe così per Eichhorn privo di fondati argomenti e si inserirebbe nel solco di una tradizione di pensiero che dell'allegorizzare aveva fatto uno dei suoi punti di forza, da Filone l'ebreo al Platone delle interpretazioni omeriche, da Giuseppe Flavio e gli Alessandrini ai padri della Chiesa, e che aveva impedito di risalire al testo stesso per intenderlo nella sua specificità. Chiamando in causa l'autorità di teologi antichi e moderni, Arnobio, Iperio, che già avevano condannato questo tipo di interpretazione, e rifacendosi al Semmler della Vorbereitung zur theologischen Hermeneutik zur weiteren Beförderung des Fleisches angehen der Gottesgelehrten, pubblicato a Halle nel 1760, Eichhorn conclude il suo saggio rimanendo in attesa delle reazioni dei teologi contemporanei sul rinnovato tentativo di allegorizzare nell'esegesi biblica, per cui spetterebbe alla religione razionale il supremo principio di ogni interpretazione della scrittura, e ogni ricercare e interpretare a tal proposito dovrebbe prendere le mosse dal principio di ricercare in essa lo spirito divino che la anima. In una serie di studi comparsi tra il 1793 e il 1795, Johann Georg Rosenmüller è uno dei primi teologi a intervenire nella polemica che si era così aperta nelle opere De Fatis Interpretationis Sacrarum Literarum, Lipsia 1793-1794, o ancora Einige Bemerkungen da Studium der Theologie betreffend, nebst eine Abhandlung über einige Äußerungen des Herrn Professor Kant die Auslegung der Bibel betreffend, pubblicato a Erlangen nel 1794. Prendendo posizione contro l'auslegung morale e allegorica kantiana, ovvero contro l'applicazione della filosofia critica al testo biblico, alla contestazione del procedimento a priorico che conduce a ricercare verità morali nella scrittura e nel Nuovo Testamento, in particolare, indipendentemente dai risultati dalle ricerche storico-critiche fatte sui testi sacri, si accompagna la rivalutazione della conoscenza storica, sia per la sua influenza sulla moralità, contrariamente alla tesi kantiana, sia per la specifica appropriatezza in funzione dell'interpretazione letterale, critica, grammatica dei testi stessi. Quindi viene rifiutata come infondata l'interpretazione mistica e allegorica che già Eichhorn, di cui già Eichhorn aveva imputato l'interpretazione kantiana. Secondo l'autore, Kant avrebbe utilizzato questo tipo di interpretazione per sopperire alle mancanze dell'elemento storico nella Bibbia, perché esso, propriamente inteso e letteralmente, non contribuirebbe in nulla a produrre uomini migliori, né a realizzare la destinazione morale dell'uomo in quanto essere razionale. Io salto qui. L'importanza della posizione kantiana e dal punto di vista di Rosenmüller la sua pericolosità per gli studi teologici tedeschi, perché ciò significherebbe aprire di nuovo le porte alle interpretazioni scritturali di fanatici, di Schwerner e di sette di ogni genere, e quindi la sua pericolosità per gli studi teologici tedeschi presenti e futuri, che rischiano, abbracciando una tale dottrina dell'accomodazione animata dai principi della ragion pratica, di ricadere in una nuova barbarie, dopo gli sforzi compiuti negli ultimi decenni per installarsi su una solida base storico-grammaticale e critica, seguendo l'esempio degli studi filologici sui classici greci e latini. Un altro teologo, Johann August Nesselt, riferendosi sempre al paragrafo sesto della religione, nelle sue Animadversiones in sensum librorum sacrorum morale del 1795, giudica quella morale come un'interpretazione impropria e dubbia, da non preferire a quella grammaticale storica, che sola rende possibile il recupero del senso letterale e grammatico di cui sono portatrici le scritture. Cantium non è un dixisse sensum cui propria et in arte sensum appellatus. Usum grammaticum non religionem rationalem, sum principium interpretandorum librorum sacrorum dici debere. La critica ai teologi filosofanti, sono sempre parole di Nesselt, e al privilegiamento di un senso nascosto, o mistico, o allegorico, morale, da rinvenire nel senso, spogliandolo dalla hülle da cui era stato ricoperto in periodi storici infantili dell'umanità, comporta in tal modo la rivalutazione dell'elemento storico presente nelle scritture, proprio ai fini del miglioramento morale, cosa che era stata negata da Kant. Del resto, secondo Nesselt, la maniera proposta da quest'ultimo di trattare i libri biblici non tende a nessuna specifica interpretazione, ma piuttosto soltanto a un'accomodazione di detti biblici a dottrine morali della religione razionale. Tuttavia, la possibilità indicata dal filosofo di collocare un senso sotto le parole bibliche avviene solo arbitrariamente, per far sì che le dottrine della religione razionale possano essere adeguatamente documentate nella loro pienezza con le parole bibliche. Nel recensire le Animadversiones di Nesselt, il Neues Theologisches Journal di Ammon, Henlein e Paulus tendeva invece a mettere in risalto come l'intento kantiano non fosse quello di sminuire l'interpretazione storico-grammaticale, bensì di porvene accanto una che rispondesse ai bisogni morali e razionali del proprio tempo. I compiti di entrambe le interpretazioni rimanevano diversi, e al moralische, ovvero filosofische Schriftausleger, spettava al più di verificare se i materiali raccolti dallo Schriftgelehrte mediante la filologia e il rinvenimento del senso letterale fossero utilizzabili in vista di una lettura e interpretazione morale della scrittura stessa. Come stiamo notando, la discussione sull'ermeneutica kantiana e sui suoi principi animatori, richiamantisi alla ragion pratica e all'esigenza della formazione di una religione razionale pura, che mirasse al miglioramento morale dell'uomo e gli indicasse la strada per la realizzazione della sua destinazione, diviene uno dei nuclei centrali del dibattito di fine secolo sugli statuti e i compiti della teologia e sui suoi rapporti con la filosofia da un lato e la filologia, la critica, l'ermeneutica, il sapere storico e le sue scienze ausiliari dall'altro. La questione non era tanto quella della liceità per il filosofo di interessarsi di temi religiosi e teologici, fatto avvertito fortemente da Kant sia per i suoi problemi con la censura, sia nella presa di posizione dello Streit der Fakultäten, quanto piuttosto quella dei criteri e delle modalità con cui avveniva tale interessamento. Per rimanere nel nostro caso specifico, era possibile per un filosofo addentrarsi nei campi specifici dell'ermeneutica teologica, così come si era configurata negli ultimi decenni in Germania? Anch'essa, infatti, si era trovata impegnata in prima linea a combattere una lotta contro la vecchia dogmatica e l'ortodossia per la formazione di un libero canone interpretativo. Si pensi a Semler o a Michaelis, indicato del resto come esempio da Kant stesso. Nell'analisi delle scritture, anche qui si trattava di espansione dell'illuminismo, realizzandosi nell'adozione e nell'applicazione di raffinati strumenti critici, la Heere und Niedere Kritik, l'una basata sull'analisi dei nessi concettuali interni a un discorso, l'altra, in quanto Wortkritik, sull'esame delle parole costituenti una frase. Quindi una filologia mirante alla ricerca, allo studio, alla verifica delle fonti e a conoscenze linguistiche intese come mezzo indispensabile e preliminare per accedere alle varie urcunde, ai vari documenti delle civiltà del mondo antico e poterli giudicare e comprendere nella loro specificità. Lo stesso Christian Storch, che in alcuni luoghi delle annotaciones si era riferita all'interpretazione filosofica e a quella storico-grammatica, alcuni anni prima si era soffermato sulla definizione del senso storico, indicato anche universalmente senso grammaticale o letterale, inteso come l'unico ermeneuticamente vero e appropriato per l'interpretazione delle sacre scritture, contrapposta a quella allegorica interpretandi razionem, inaugurata con gli apostoli Filone, i padri della Chiesa, precaria, senza argomenti e fonte di errori ermeneutici. Il tema dunque, come abbiamo visto pure in Semmler, era stato trattato dai teologi prima che apparisse l'opera di Kant. Si pensi qui al famoso filologo ed ermeneutica di Lipsia Ernesti, Programmatica Interpretazione, Librorum in primis sacrorum e poi De Vanitate Philosophantium in Interpretazione Librorum Sacrorum. Un importante testo di Johann Wilhelm Schmidt, di cui ho citato prima il titolo, porta a domandarsi che cosa vada mantenuto dell'interpretazione morale. Tuttavia lo stesso Schmidt, che cerca di conciliare le posizioni dei teologi e la posizione kantiana, sottolinea come il senso ermeneuticamente vero delle espressioni bibliche rimane quello letterale e grammaticale e non uno inserito arbitrariamente dall'esterno. E il suo rinvenimento va effettuato secondo le precise regole dell'interpretazione grammatico-storica. Solo tenendo presente queste, non stravolgendone i risultati, è possibile poi effettuare una interpretazione-spiegazione morale, con fini quale la separazione dello spirito dalla lettera e delle scritture. Un altro teologo, che sotto uno pseudonimo, Philalethes Eridairon, l'opera è Observationes ad morale sive practicam librorum sacrorum interpretationem pertinentes, Lipsia 1796, prende posizione sempre contro l'interpretazione kantiana e parla di nuova barbarie nell'ermeneutica teologica, come già aveva paventato Eichhorn. In ogni caso, anche se l'applicazione kantiana delle scritture non fosse assimilabile a interpretazioni allegorico-mistiche, tuttavia essa si rivelava una teoria mancante di principi stabili e l'uso morale della Bibbia non era adeguatamente limitato da regole determinate. Con toni molto più violenti si esprimeva contro il cosiddetto metodo kantiano dell'interpretazione della Bibbia un teologo allievo di Michaelis, Carl Ludwig Ziegler, Erläuterung der schwierigen Stelle Johannes 8, 1259, nebst einigen Bemerkungen über die kantische moralische Auslegung Methode der Bibel, nel Magazin für Religionsphilosophie, Exegese und Kirchengeschichte, per il quale il dovere più sacro dell'interprete consisteva nello sforzarsi di portar fuori il vero senso dello scrittore che egli stesso ha pensato nel suo scritto, senza preoccuparsi delle conseguenze scaturentini. Per Ziegler, il raggiungimento della suprema destinazione dell'uomo, del fine ultimo morale dell'umanità, grazie alla concezione della divinità intesa come suprema intelligenza morale e principio della moralità e della ragione, non può passare attraverso l'adozione di quell'improprio e menzognero uso della scrittura che è il modo di spiegazione allegorico, morale e mistico che poteva essere tollerato nella patristica, ma non più dopo i grandi progressi compiuti dall'interpretazione storico-grammaticale. Si trattava di idee che già qualche anno prima, nei Theologische Beiträge, Johann Christoph Jakob Rudolf Christoph Eckermann, professore di teologia a Kiel, aveva sviluppata, sempre con l'accentuazione e la preferenza dell'interpretazione grammatica della Bibbia, l'unica a consentire, mediante il coglimento del vero senso del discorso, l'applicazione del suo contenuto al fine di renderlo utilizzabile appropriatamente per virtù ed eticità. In un testo comparso anonimo nel 1795, però è di Wilhelm Traugott Krug, sulla perfettibilità della religione rivelata, infatti Briefe über die Perfektibilität der geoffenbarten Religion als Prolegomena zu einer jeden positiven Religionslehre, die künftig den Siegergang eine festgegründete Wissenschaft wir gehen können, dal linguaggio fortemente kantiano, viene mantenuta una posizione più moderata. Da un lato si riconosce la giustezza e la legittimità della lettura kantiana rispetto ai suoi assunti morali razionali, dall'altro, riguardo all'esegesi biblica, ne vengono messi in risalto i difetti con la solita accusa di trascuratezza dell'interpretazione storico-grammaticale e i rischi di una ricaduta nelle tendenze interpretative allegorico-misticheggianti già affermatesi nel passato. La possibile soluzione, come già per Schmidt, È per Krug quella di individuare il senso grammatico storico fatto emergere dall'esperto scritturale e di farlo rielaborare come materiale per la religione razionale e per la costruzione dell'edificio dottrinale della religione rivelata. Come abbiamo visto, l'elemento che accomuna, pur con le diverse sfumature, le critiche rivolte a Kant per la sua maniera di interpretare le scritture, è nella sostenuta illiceità di utilizzare queste a fini estranei alla loro conformazione di raccolta documentaria, interpretabile e comprensibile solo mediante strumenti tecnici specifici, e nel soffermarsi sulla subordinazione della lettura erudita a quella morale e razionale. Gli interventi invece favorevoli all'interpretazione kantiana, che riassumerò molto brevemente, si caratterizzano per la ricomprensione di essa all'interno della più generale filosofia pratica e per gli obiettivi di rivoluzionamento nel modo di pensare e di agire che la morale razionale si poneva quale adempimento della superiore essenza dell'uomo e della sua destinazione. Penso qui al testo di Karl Heinrich Ludwig Pelitz, Beitrag zur Kritik der Religionsphilosophie und Exegese unseres Zeitalters, Ein Versuch auf Veranlassung der neuesten zur Begründung einer reinen Religionswissenschaft angestellten Untersuchungen, Lipsia 1795. Questo contributo, appunto, alla critica della religione e dell'esegesi della nostra età si pone come sintesi tra le non più trascurabili esigenze poste all'interprete della scrittura, dalla critica filologica e dall'ermeneutica storico-grammaticale, e il bisogno della propria età illuminata di ricavare dai testi sacri un senso che fosse convincente alle motivazioni morali di quella. Non si tratta di privilegiare un'esegesi allegorico-morale o mistica, a scapito di quella basata su rigorosi studi storico-critici, ma di utilizzare quest'ultima nell'ambito di una più universale interpretazione filosofica che si avvarrà dei risultati ottenuti dalla critica linguistico-grammaticale nel rinvenimento dei sensi della scrittura e li applicherà accomodandoli ai superiori bisogni morali e razionali propri dell'età presente, assai diversi da quelli manifestatosi all'epoca della redazione del testo biblico o nelle altre epoche dello sviluppo del genere umano, nelle quali la rivelazione graduale della divinità ha segnato le sue tappe. Anche il teologo Paulus, auch etwas über den Standpunkt des moralischen Schriftes Auslegers, nel Neues Theologische Journal numero del 1796, tende a praticamente distinguere di più questa differenziazione che c'era tra interpretazione mistica e interpretazione morale e non vederle identificate nella lettura kantiana. Sulla differenza esistente poi tra la parola morale dell'interpretazione kantiana e la parola interiore di alcuni mistici moderni, Carlo Stadio, Schwenkfeld, Weigel e Behme, si sofferma Christian Friedrich Ammon. Nel testo, Über die Heiligkeit des inneren Wortes einiger neuer Mystiker mit dem moralischen Wort der kantischen Schriftauslegung. Ancora importante la posizione di Johann Heinrich Tiefrung, professore a Halle, per cui si tende sempre a conciliare l'interpretazione storico-grammaticale con la liceità dell'interpretazione kantiana, filosofico-kantiana. Con la pubblicazione dello Streit der Fakultäten, questo dibattito, molto acceso per un quinquennio, scompare, anche perché Kant ribadisce le sue tesi e viene meno poi nel panorama teologico-filosofico già dagli inizi dell'Ottocento. Altri due autori meritano di essere qui nominati, cioè Berger, Immanuel Berger, nella sua introduzione al Nuovo Testamento, e poi il teologo forse più stimato da Kant, cioè Carl Friedrich Steudelin, già nelle Ideen zur Kritik des Systems der christlichen Religion e poi successivamente nelle note della morale di Michaelis, ecco, venivano ribadendo questo principio per cui ogni esegeta dovrebbe essere propriamente filosofo, non si trattava più di febbre o delirio esegetico come si era espresso Eichhorn nella teologia, ma di ricomprensione della lettura kantiana, considerata infine come assolutamente legittima entro i più generali bisogni filosofici e religiosi dell'età, che trovava proprio in questi temi un banco di verifica delle proprie fermentanti esigenze. Finito. Ringrazio.